In collegamento telefonico con Luca Brunetti, regista dell'Ora di Lezione, che sarà programmato il 2 febbraio, venerdì 2 febbraio, alla Feltrinelli a Pescara. Intanto Luca, benvenuto. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Federico, grazie per l'invito e per la telefonata. Raccontiamo subito la storia, di cosa parla l'Ora di Lezione? Allora, l'ora di lezione è basato sull'omonimo saggio di Massimo Recalcati, pubblicato da Einaudi, se non erro, alla fine del 2014, e racconta la storia di un professore che in realtà si chiama Guido, ma che vorrebbe essere, come dire, la storia, l'alter ego di Recalcati stesso, come, visto che il suo libro ha alcuni, pur essendo un saggio, alcuni passaggi completamente autobiografici che io ho ripreso nel film, ma non ho voluto utilizzare il suo nome, ecco. Racconta la storia di un professore che, come tutti i giorni, va in classe a tenere la sua consueta ora di lezione, ma un giorno si trova a dover affrontare il più grande conflitto, almeno è quello che io mi sono immaginato quando ho iniziato a scrivere la sceneggiatura, che ogni docente può trovarsi di fronte, ovvero quello dell'aula vuota. E lui non sa perché non ci sono gli allievi che non sono venuti a lezione, e questo gli fa tornare, oltre a creargli una situazione, diciamo, in qualche modo di frustrazione, ma gli fa tornare alla mente una serie di episodi legati al suo passato, quando invece lui era uno studente, un bambino, alle scuole elementari in particolare, in cui lui si ebbe a che fare con una pessima insegnante, un insegnante che addirittura lo bocciò in seconda elementare. Questo perché lui pensa, in qualche modo, prova a riflettere sul fatto che il suo essere insegnante di fronte a un'aula vuota possa essere in qualche modo determinato dal fatto che lui è un pessimo insegnante per i suoi allievi, e che quindi i suoi allievi preferiscono non venire a lezione perché da lui pensano da non avere nulla da imparare, fondamentalmente. E questo, nel suo ruolo di insegnante, lo pone di fronte a un grosso dubbio. Quando si rende conto che questa forse potrebbe essere la spiegazione, e l'ora di lezione sarebbe già dovuta cominciare, perché lui guarda in maniera ossessiva quasi l'orologio, e quindi il passare del tempo, lui decide di andarsene, e sulla via di fuori della scuola, della classe, lui incrocia un'unica studentessa che, seppur in ritardo e seppur affannata, è voluta comunque venire a lezione, a seguire l'ora di lezione di questo professore. Lui le dice che tanto i suoi compagni hanno deciso di non venire, quindi è libera di tornare a casa, ma lei decide, gli dice di no, perché lei si alza al mattino presto per venire a scuola e non vuole perdere la sua ora di lezione, come immagina che non lo voglia fare nemmeno il professore. E quindi il professore, spronato da questa sua allieva volenterosa, torna in classe e all'unica allieva farà comprendere, attraverso una lezione che ha come tematica, da una parte, la storia di Telemaco primo, ma poi l'importanza dell'amore, la passione, il desiderio nei confronti di una materia, o comunque di un oggetto quale può essere un libro, e dello studio, se così lo vogliamo dire in generale, gli farà capire l'importanza di non dover perdere mai, sia da un punto di vista del professore, ma anche da un punto di vista dell'allievo, di non perdere la sua ora di lezione. Questo per sintetizzare il più Sì. Senti possibile la storia dietro l'ora di lezione, ecco. Luca, di quel saggio cosa avevi apprezzato e qual è stata poi l'idea che ti ha portato a trasporlo cinematograficamente? Allora, beh, diciamo che condividevo, o condiviso, quando ho letto il saggio prima di approcciarmi alla sceneggiatura, ho condiviso, e condivido tuttora, molte delle tesi di Recalcati a proposito dell'importanza dell'ora di lezione, del rapporto che ci deve essere tra un insegnante e un allievo. E quindi ho cercato, anche se appunto la saggistica non è narrazione, quindi non è finzione, allora devi trasformare un concetto, no, filosofico o psicologico in un qualcosa di concreto e di drammaturgico, insomma, ho provato a mettere dentro un po' tutto quello che c'è nel saggio di Re Calcati. E psichiatri, psicanalisti e terapisti che lo hanno visto, in particolare dell'associazione Jonas, che appunto oggi ha organizzato questo incontro di oggi pomeriggio alle Feltrinelli qui a Pescara, mi hanno detto che comunque sono riuscito a rappresentare molto bene quello che è quelle che sono le tematiche di Re Calcati. Come mi ci sono approcciato? Beh, in realtà il progetto non è nato da una mia volontà, è nato dalla volontà di una persona che conosco, che è un'insegnante, una storica del teatro all'università, io sono di Torino, al DAMS di Torino, che aveva avuto la possibilità di parlare con Re Calcati e di provare a realizzare qualcosa tratto da questa sua opera, che comunque è sempre stata nel mondo della scuola, da quando è uscita, molto, molto discussa, quindi un argomento sempre molto, molto caldo. Ancora oggi, appunto, per come va la scuola italiana, insomma, ce ne sarebbe davvero bisogno di continuare a parlare di questi argomenti. Quindi io mi sono convinto della bontà del progetto, e quindi ho prodotto e scritto all'inizio questo film, e poi l'ho anche diretto, anche se in realtà appunto sono diventato un regista per caso, come amo dire, perché non dovevo essere io il regista originale del progetto, ma poi ci sono stati dei problemi personali del regista che hanno fatto sì che, avendolo già anche scritto, fossi abbastanza dentro la storia da poter mettere la mia visione a disposizione della storia, ecco. E quindi ne ho curato poi anche la regia. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento alla libreria La Feltrinelli a Pescara venerdì 2 febbraio alle 17:30 con l'ora di lezione di Luca Brunetti. Luca, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie mille Federico, un saluto a tutti.